Ehi, ehi, passerottino! Passerottina, è venerdì! Sveglia! Sveglia! Benvenuti all'Early Bird Special. Friday, thank God it's Friday, è venerdì ragazzi, grande, un fine settimana lunghissimo peraltro, perché ieri veramente abbiamo fatto riposo totale, quest'oggi venerdì è l'anticipo di questo fine settimana che si preannuncia veramente estremamente rock and roll. Questo è l'Early Bird Special, io sono Chuck Bird e ho fatto in modo che questa puntata fosse particolarmente ricca di grande musica. Non ci credete? Ecco i Birds! Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. Easy Riders non è semplicemente un programma in onda tutti i giorni qui da Rock FM, ma anche un ottimo libro che in questo momento fa bella mostra di sé negli scaffali delle librerie. Scritto da Fabio Cervone, che ci racconta che nel 1965 il rock and roll aveva trovato finalmente un suono nuovo, quello dei Byrds, che grazie al singolo Mr. Tambourine Man erano letteralmente volati in cima alle classifiche. Per la prima volta c'era la netta impressione che non si sarebbe trattato di una fugace meteora. La British Invasion aveva finalmente trovato pane per i propri denti. Chi l'avrebbe immaginato che Mr. Tambourine Man, una delle folk song più visionarie lanciate al mondo da Bob Dylan, potesse cambiare completamente faccia e acquistare quel suono cristallino creato dalle chitarre e dall'intrecciarsi delle voci? Per molti questo significava la nascita del folk rock, come sentire un complesso beat rifare le canzoni di Woody Guthrie, o meglio, come se Dylan avesse incontrato i Beatles. Per i Byrds era semplicemente l'inizio di un lungo viaggio musicale. E siccome questa mattina ho deciso di non farmi mancare niente, dopo i Byrds io mi faccio una robusta dose di Ramones. Rock, rock, rock, rock, Rockaway Beach! Thank you. out. And who deny it's what the fighting's all about? Birds, Ramones, Pink Floyd, cosa hanno in comune? Nulla. Se non che sono artisti incredibili in grado di scrivere canzoni meravigliose. Ve l'avevo detto o no che questa mattina ci saremmo divertiti? E lo faremo fino a stasera se rimarrete insieme a noi e sulle frequenze di Rock FM. Andremo avanti tutta la notte a stupirvi con la migliore musica in circolazione. You Shook Me All Night Long, AC/DC, all'Early Bird Special. Long. Eppure ce l'ho davanti, quel maledetto orologio che mi dice che la notte, il venerdì notte, è ancora lontano. Passerottini e passerottine, stringete i denti. In ufficio, a scuola, ovunque voi siate. Qui c'è Chuck Bird che vi vuole un sacco di bene. In and out of love. Lui è Bon Jovi. L'amore, l'amore, l'amore, l'amore ci fa fare le cose più belle, anche più insensate, come quella di lavorare tutte le mattine dalle 6 alle 7 in diretta qui da Rock FM. Però il mio amore per voi è così grande che lo faccio più che volentieri. E anche Cherie ci mette tutto il suo amore per realizzare queste meravigliose tazze di caffè nero bollente che mi tengono su per tutta la durata dell'Early Bird Special. Thank you, Cherie.